in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che oggi hanno titoli abbastanza diversi, anche se diciamo prevale il tema della Libia, perché oggi a Berlino ci sarà questa conferenza dall'esito assai incerto visto le mosse della vigilia del generale Haftar. Il Sole 24 Ore però si concentra sui provvedimenti contenuti nel mille proroghe, la cosiddetta legge mille proroghe, che si trova attualmente in discussione alla Camera, e in particolare quelle che riguardano la sanità e che quindi riguardano tutti noi. Emergenza sanità, medici al lavoro fino a 70 anni, in pensione più tardi a richiesta, specializzandi in corsia, quindi tutti gli studenti che sono già laureati ma stanno studiando per la specializzazione possono già andare in corsia a partire dal terzo anno. È interessante anche, sempre nel mille proroghe, ce lo spiegano poi Marzio Bartoloni e Marco Mobili a pagina 5 del Sole di oggi, tutte le nuove risorse per le crisi aziendali, che purtroppo sono ancora moltissime, i cosiddetti tavoli aperti al Ministero dello Sviluppo Economico. Poi c'è una fotonotizia è un fotomontaggio con una bellissima immagine di Greta Thunberg e un'inchiesta sulla cosiddetta economia verde o Green Deal, quindi accordo verde. 31 mila miliardi, ammontano quindi a circa 31 mila miliardi patrimoni investiti in maniera socialmente responsabile nel mondo. A fornire questa cifra è la Global Sustainable Investment Alliance, che appunto spiega anche in vista del vertice di Davos, dove si parlerà molto di economia verde, di svolta verde, spiega che questa è la cifra quindi anche la crescita, ne ha parlato altre volte anche il Sole 24 Ore, della cosiddetta finanza sostenibile. E poi vi dicevo la notizia della Libia: a Berlino partenza in salita, così riassume Roberto Bongiorni in un articolo che poi trovate a pagina 4. Haftar chiude i porti del petrolio, cioè il generale ha deciso di bloccare del 70% l'export del 70% della produzione. Quindi vi dicevo, l'inchiesta sul Green Deal la trovate a pagina 3, è affiancata a quella che viene chiamata, e se ne parla a pagina 2, la sfida per un capitalismo pulito, la svolta verde che arriva a Davos. Il Corriere della Sera: Libia ora è sfida sul petrolio, Haftar blocca l'export alla vigilia del vertice di Berlino. La fotonotizia però è dedicata a quello che sta succedendo in Cina, ci racconta Guido Santevecchi, corrispondente dalla Cina del Corriere della Sera, di questo nuovo virus. Ricorderete tutti, credo, la crisi della SARS, quella malattia legata appunto a un virus qualche anno fa. Timori sul virus cinese: ci sarebbero già 1700 infettati. Uso il condizionale perché quando si tratta di queste emergenze, che siano sanitarie o di altro genere, non c'è mai certezza che i dati ufficiali diffusi dalla Cina siano poi reali. Ma vi segnalo il Padiglione Italia, la consueta rubrica di Aldo Grasso sul Corriere della Sera della domenica, sulla prima pagina. Oggi è dedicata a Tommaso Montanari, critico, filosofo, critico d'arte, che si è scagliato contro Giampaolo Pansa a poche ore dalla scomparsa del giornalista, e scrive Aldo Grasso: Maramaldo Montanari, si fa fatica a capire il violento attacco che Tommaso Montanari ha riservato a Giampaolo Pansa a pochi giorni dalla sua scomparsa. Bollando come, aperte virgolette, intollerabile ipocrisia italica e borghese il parlare bene dei morti, scrive Aldo Grasso tra parentesi, si tratta di pietas, che è altra cosa. Lo storico dell'arte, già presidente di Libertà e Giustizia, nonché ascoltato consigliere del ministro Bonisoli, ha pensato bene di infangare la memoria di Pansa sul sito di Micromega. Le colpe di Pansa, i suoi libri, a partire dal Sangue dei Vinti, non sarebbero altro che l'opera di un falsario, aperte sempre virgolette, una continua, abile, suggestiva manipolazione dei fatti che mira a costruire un sostanziale falso storico. Testi privi di qualunque valore cognitivo, irti di coscienti omissioni, falsificazioni, disonestà intellettuali di ogni tipo. Chiuse le virgolette. Carta straccia, nient'altro che pericolosa carta straccia. Nei primissimi anni 90, un coraggioso partigiano comunista di Reggio Emilia, Otello Montanari, sollevò scandalo dicendo la verità sui fatti poi raccontati da Pansa. Senza per questo cancellare il valore della lotta partigiana, Lampi prima lo tacciò di tradimento, poi lo riabilitò. L'ambizioso Maramaldo Montanari, questo eroe dell'indignazione postuma, pensa che la storia si riscriva solo con gesti moraleggianti e isterici. Che la storia sia lui. La Repubblica invece apre su questa ricostruzione del pensiero di Di Maio. Di Maio, due punti, ci vuole una nuova cosa con la C maiuscola grillina. Il leader dei 5 Stelle pensa alla rifondazione del movimento. Non basta più un solo capo, però anche se sono stanco delle pugnalate, io non mi dimetto. La fotonotizia è stata scattata ad Hammamet, dove si sono ricordati i 20 anni dalla morte di Bettino Craxi. 20 anni dopo, tra i reduci di Hammamet, trovate tutto poi alle pagine 10-11 con anche un articolo di Francesco Merlo. L'Espresso è dedicato alle sardine, sapete ci sono molte manifestazioni e tra l'altro molte polemiche intorno al fatto che Matteo Salvini, leader della Lega, aveva annunciato di voler chiudere la campagna elettorale per le regionali dell'Emilia Romagna che ci saranno domenica prossima a Bibbiano, il comune diventato tristemente famoso per la vicenda degli affidi di bambini che hanno portato a un'inchiesta sulle modalità di questi affidi. La stessa cosa, nello stesso giorno volevano quella piazza anche le sardine e un tribunale ha decretato che, essendo la Lega un partito, a differenza delle sardine, è il diritto di organizzare una manifestazione in quella piazza è della Lega. L'Espresso titola Sardine d'Italia, chi sono, che cosa vogliono, perché stanno cambiando la sinistra italiana e non solo. Tra nuove speranze e vecchi partiti, il movimento lancia da Bologna la sua sfida decisiva. Il Messaggero apre sulla Libia, ma con un taglio diverso rispetto alla decisione di Haftar di tagliare il 70% dell'export del petrolio. L'Italia, due punti, stop armi alla Libia. Oggi la conferenza di Berlino. L'ONU ribadisce c'è un governo unico per noi delle Nazioni Unite ed è quello di al-Sarraj. Di Maio, punire i paesi che armano le fazioni, l'Unione Europea al vertice unita o perderà la faccia. Poi in prima pagina non poteva che esserci la fotonotizia legata a una delle due squadre di Roma, che è la Lazio, che ieri ha vinto per 5-1 sulla Sampdoria. Immobile fa per 3, Lazio volo infinito. Ma vi segnalo dalla prima pagina del Messaggero anche un importante aggiornamento sulla vicenda Alitalia. Tagli per Alitalia, via 8 aerei con 1000 esuberi. E sarebbe questo il piano del direttore generale Giancarlo Zeni, che dice ridurre i costi in 4 mesi per poter poi vendere la compagnia o a Delta Airlines, la più grande compagnia americana, o alla compagnia tedesca Lufthansa. La Stampa, Libia a Berlino, prove d'intesa, Haftar minaccia, chiudo i pozzi. Vi segnalo La Stampa, secondo me, agli approfondimenti più interessanti sulla questione, trovate tutto alle pagine 2 e 3 tra l'altro l'approfondimento sulla Libia, ma che si inserisce in un contesto più ampio africano, di Maurizio Molinari, direttore della Stampa. Sul Maghreb, l'ipoteca di Erdogan, armamenti ed energia. Sapete che Erdogan ha mandato dei soldati in Libia perché sostanzialmente vuole difendere l'accordo sull'energia che ha stretto con il premier, quello come ha ribadito ieri l'ONU, riconosciuto dall'ONU, quindi dalla comunità internazionale, Fayez al-Sarraj. L'Avvenire ha un'apertura diversa, la notizia la trovate anche sul Sole 24 Ore approfondita. L'Avvenire però apre su questo perché in Senato arriva la legge sui caregiver, letteralmente coloro che curano. Quindi il titolo, la cura di chi cura, la platea potenziale interessata è di 7 milioni di persone, previsti aiuti per 65 milioni di euro. Sono appunto i familiari che assistono malati e disabili, le associazioni spingono perché sia riempita di contenuti e fondi adeguati. La fotonotizia è dedicata all'annuncio, che ha già fatto molto discutere, ne avrete già sentito sicuramente, del sindaco di Milano Sala, che a breve introdurrà il divieto di fumare per esempio alle fermate degli autobus o di altri mezzi pubblici, e poi, inserito in un più ampio piano per il clima, entro il 2030 c'è l'idea di vietare proprio il fumo all'aperto. In prima pagina sull'Avvenire anche la questione della Libia, il petrolio bloccato, conferenza per un'intesa. Il Fatto Quotidiano ha un'apertura invece dedicata appunto ai 20 anni della scomparsa di Craxi e a tutte le persone che sono andate a commemorarlo ad Hammamet in Tunisia. Pellegrini, il titolo è I senza vergogna, pellegrini craxiani ad Hammamet. E Repubblica, un'intervista di Giorgio Bocca, Il Fatto a pagina 7, dove Bocca diceva, un'intervista concessa a Barbacetto, a Gianni Barbacetto del Fatto Quotidiano, era un bandito, rubava miliardi e i ladri gli servivano. Il Giorno, fotonotizia sempre dedicata ai 20 anni dalla scomparsa di Bettino Craxi, che morì ad Hammamet appunto il 19 gennaio del 2000. E il ricordo è di Michele Brambilla, Una storia italiana. Però il titolo principale del Giorno è dedicato a tutte le novità, sempre nella legge finanziaria e nel mille proroghe, per chi sta cercando un lavoro e per chi deve assumere. Lavoro cercasi, 10 bonus a chi assume. Le novità si applicano a giovani apprendisti e laureati con lode. Proroga per i pacchetti donne e disoccupati. Trovate tutte le pagine 2 e 3 del Giorno. Vi segnalo la prima pagina del Secolo XIX, che è sempre molto attento alla questione autostrade, naturalmente perché il 14 di agosto del 2018, ricordiamolo sempre, crollò il ponte Morandi facendo 43 vittime. E qui apre su un rapporto che viene definito shock del supercommissario Migliorino: le barriere autostradali sono tutte da rifare e in Liguria c'è un record di criticità. Il Ministero dei Trasporti dice servono almeno 2 miliardi di interventi per appunto scongiurare il pericolo rappresentato da queste barriere autostradali inadeguate. Il Giornale, da sardine a squali, buonisti ma prepotenti, chiedono che Salvini non faccia il comizio a Bibbiano, poi pretendono la piazza vicina, cercano lo scontro. Questa è l'interpretazione del Giornale, che in prima pagina ha anche un lungo articolo di Augusto Minzolini, ex tra l'altro deputato per Forza Italia, il Craxi ritrovato, e poi una lettera di Silvio Berlusconi, in realtà che inizia con cara Stefania Craxi, una dei due figli di Bettino Craxi, il ricordo del cavaliere, Bettino visionario, statista e amico, per difendere la vita sacrificò la libertà, sacrificò la vita. La prima pagina della Verità: l'unico lavoro difeso dalla sinistra è quello sulla pelle degli immigrati. Perché questo titolo? Perché il governo ha rinviato i vertici per 2 crisi aziendali, Embraco e Whirlpool, ma si piange sui disoccupati causati dai tagli all'accoglienza e dai decreti sicurezza. Tornano le proposte di cittadinanza facile promosse dalla Bonino, Emma Bonino, e plaudite da Avvenire. In prima pagina la foto di Mattia Sartori: schiaffo alle sardine, volevano fregare la piazza alla Lega, finiscono fregate. Noi ci lasciamo un attimo, sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Ci mancavano ancora un paio di prime pagine, poi passiamo alle pagine interne dei quotidiani di oggi. Libero. Il titolo è Padrone delle piazze, Salvini mangia tutto, e poi tutto in maiuscolo, anche le sardine. I pesciolini rossi hanno provato a impedire il comizio leghista a Bibbiano, ma alla fine vince il capitano, che è pronto a papparsi il PD alle regionali. Gli interventi, uno di Pietro Senaldi, direttore di Libero insieme a Vittorio Feltri, che poi ha un editoriale sullo stesso tema, cioè Salvini, processano Matteo per disperazione di genere elettorale. Questo è l'editoriale di Vittorio Feltri, che fa riferimento soprattutto al voto che ci sarà domani in giunta per decidere se Matteo Salvini vada o no processato per aver impedito alla nave Gregoretti di attraccare una nave della Guardia Costiera, in realtà Vittorio Feltri usa un altro verbo, dice per aver impedito alla nave Gregoretti di vomitarci addosso un carico di immigrati raccattati in mare. Ricordo che questo giornale è finanziato con i soldi del fondo per l'editoria. L'altro articolo è di Antonio Socci. E poi c'è in prima pagina la preziosa rubrica di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che si chiama Alta Portineria, e qui è intitolata «Sia lodato il pirla che ha pagato». Questa è la prima pagina di Libero. Il manifesto di male in greggio, quindi come sempre un titolo che gioca con le parole, ma il riferimento naturalmente è alla conferenza che ci sarà oggi a Berlino, la conferenza sulla Libia, patrocinata dal presidente russo Vladimir Putin e da quello turco Erdogan. Sul vertice già incerto precipita il recato di Haftar, da cui appunto di male in greggio, che chiude i pozzi petroliferi. L'ONU, conseguenze devastanti. Passiamo alle pagine interne dei quotidiani e tra l'altro ringrazio come sempre tutti per l'ascolto e in particolare poi chi manda messaggi così presto al mattino, sms al 349-238-6666, sms o WhatsApp. C'è un ascoltatore che deve aver sentito, e lo ringrazio per questo ascolto così attento, la rassegna di ieri, la rassegna internazionale, dove citavo un articolo apparso su New Scientist e tradotto su Internazionale di questa settimana, dove si parlava del fatto che a volte i farmaci viene accelerato l'iter per mettere un farmaco sul mercato perché appunto promette vantaggi per chi ha una certa malattia. E concludevo dicendo che sulle questioni di salute è meglio non informarsi su internet. Questo ascoltatore dice in realtà ci sono anche molti medici non fanno sostanzialmente, non sembrano informati a sufficienza, quindi secondo questo ascoltatore è meglio informarsi su internet. Non so, io continuo a avere dei dubbi su questo, anche se naturalmente nessuno è perfetto, nemmeno i nostri medici, e quindi sicuramente non sono sempre al corrente di tutto. Ma vi dicevo, le pagine interne, molto interessante l'approfondimento che trovate a pagina 6 del Sole 24 Ore di Carmine Fotina su questa nuova legge sui marchi storici. Registro, logo, aiuti, le nuove regole per 850 marchi storici. Nel provvedimento del Ministero per lo Sviluppo Economico un doppio binario, registrazione di almeno 50 anni per chi può provarne l'utilizzo, modifica al mille proroghe per un fondo che attragga investimenti. E sono naturalmente tantissimi i marchi storici che vengono per esempio ricordati in questa pagina, da Olivetti, Campari, Moto Guzzi, Liquore Strega, Simmental, Proraso, Amaro Medicinale Giuliani, San Pellegrino, Lazzaroni e Cinzano, ma ce ne sono tantissimi, tanti altri. La serie è a tu per tu, quindi l'incontro che si alterna una domenica a testa con la serie a tavola con di Paolo Brico. Questa settimana Lello Naso ha incontrato Rocco Commisso, patron della Fiorentina. Non faccio promesse, ma il calcio fa crescere, vincere e divertire. Questo è il titolo appunto dell'incontro che trovate a pagina 10 del Sole di oggi. E poi la pagina Sport e Business, come ogni domenica, dedicata questa settimana agli Australian Open, appunto il torneo di tennis che è in programma da domani al 2 di febbraio, ha ricavi per 250 milioni di euro e ha stipulato una polizza da 60 milioni contro il rischio incendi. Sapete che nei giorni scorsi la cenere che c'è sopra il cielo di Sydney ha comunque spinto gli atleti ad allenarsi al chiuso. Vedremo tra l'altro questa polizza contro gli incendi, perché sapete che quelli di quest'anno sono eccezionali. Però questa viene chiamata comunque l'estate australiana, viene chiamata anche la stagione degli incendi perché non sono un evento raro o non conosciuto, e quindi già nel 2019, ci racconta Tiziana Pickler a pagina 11 del Sole 24 Ore, gli organizzatori avevano stipulato un accordo assicurativo con due compagnie, Lloyd's e Hiscox, per il pericolo di annullamento dell'evento. Invece la sezione Lifestyle questa settimana è dedicata, è un lungo e bell'articolo di Chiara Beghelli, a questa tendenza che c'è a cercare di, quando si può, di non usare l'aereo, perché sapete inquina 10 volte più del treno, inquina nel senso che ha una impronta ambientale in termini di emissioni 10 volte più alta di quella del treno. Decollare verso cieli sempre più verdi, la vergogna di volare dilaga, è proprio il flight shame, è una definizione, un neologismo nato nei paesi del nord Europa, dilaga e le compagnie aeree reagiscono con design, innovazioni e servizi ecologici. Sempre nella sezione Lifestyle del Sole 24 Ore, un approfondimento di Sara Deganello sul design, e in particolare il design di questo anno che è appena iniziato. Il 2020 del design sarà versatile e leggero. Dalle prime fiere dell'anno emerge maggiore sensibilità verso elementi che si adattino a stili di vita flessibili e in spazi limitati. Cresce anche l'attenzione per la sostenibilità. Dalle pagine interne del Corriere della Sera vi segnalo un interessantissimo articolo di Paolo Di Stefano, le librerie che resistono grazie alle persone. Sapete che c'è stata la notizia che ha chiuso la seconda libreria più antica d'Italia, la Paravia di Torino, e questo ha riportato l'attenzione sul fatto che negli ultimi anni hanno chiuso molte librerie. I bassi livelli di lettura e la concorrenza di Amazon spingono molti ad arrendersi, ma c'è anche chi riesce a farcela. Il segreto, i rapporti umani. Vi dicevo le due pagine 10 e 11 su Hammamet, con l'articolo di Francesco Merlo. Hammamet, 20 anni dopo, nel rifugio di Craxi in Tunisia, tra sfilate di reduci, amici e i due figli diversi nel dolore. E vi segnalo anche un'analisi di Andrea Greco, visto che appunto cominciano ad arrivare i bilanci definitivi del 2019, il 2019 dei record per 6 banche americane, 120 miliardi di utili, JP Morgan e le altre spinte da Wall Street, dai consumi, e sono sempre più padrone della finanza anche in Europa. Dalla pagina dei commenti vi segnalo la macca di Michele Serra, che si occupa di una vicenda che probabilmente avrebbe dovuto avere più spazio sui giornali, ed è quella di un ministro del governo, ministro brasiliano della cultura nel governo di Jair Bolsonaro, che ha fatto un elogio, citandolo più volte, di Goebbels, che era l'uomo di Hitler che si occupava della propaganda, quindi naturalmente anche della propaganda sugli ebrei. Un licenziamento ingiusto, scrive Michele Serra. In ogni banda, anche la più efferata, c'è sempre la figura del cretino entusiasta, uno che rischia di mandare tutto all'aria perché, per l'ansia di vantarsi con gli amici, svela i piani. È un ruolo che è toccato al ministro brasiliano della cultura, che ha solennemente introdotto una premiazione a vantaggio dell'arte nazionale, eroica e popolare, con citazioni di Goebbels e Lohengrin come colonna sonora. Lohengrin è un'opera di Richard Wagner, più volte accusata, insomma, di strisciante antisemitismo, o comunque di elogio del nazismo. Non era in divisa nazista, questo è vero, ma non gli è bastato per non farsi accorgere. Lo hanno subito allontanato del governo, ma è lecito domandarsi se sia giusto. Il suo capo, l'ex Pará Jair Bolsonaro, nipote di immigrati veneti, prima ancora di essere trionfalmente eletto presidente del Brasile, era diventato una celebrità mondiale per la brutalità delle sue posizioni politiche. Fautore della tortura, per i delinquenti ovviamente, della pena di morte, della liberalizzazione delle armi da fuoco, sprezzante con gli indios e per questo molto amato dagli agrari, macista, razzista, omofobo. Basta per considerarlo un fascista? Forse possiamo anche aggiungere queste due sue amabili esternazioni. Le cose cambieranno solo quando un giorno faremo il lavoro che il regime militare non ha fatto, uccidendo 30.000 persone. Se vedo due uomini che si baciano per strada, li uccido. Il Salvini, al confronto, è un padre costituente. Vinte le elezioni, il Bolsonaro deve aver assunto un tutor, oppure assunto dei farmaci, perché per meglio figurare in società ha adottato un eloquio un poco più controllato. Ma quante tonnellate di ipocrisia devono servire a un tipo così per licenziare un ministro nazista? E poi vi segnalo anche l'altro commento nella pagina dei commenti, questa pagina 33, di Repubblica di Tonia Mastrobuoni su Angela Merkel. E vi leggo solo le prime righe perché danno proprio l'idea di, appunto, della coerenza, della sostanza del governo di Angela Merkel. L'etimo della parola tedesca Macht, potere, è machen, fare, ed è la cifra fondamentale del modo di fare politica di Angela Merkel. Ci lasciamo un attimo per una pausa sul traffico. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie ancora agli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666. In particolare agli ascoltatori che mi dicono: perché non ricordi che anche il manifesto accede ai finanziamenti pubblici per l'editoria? Sì, lo ricordo, l'ho ricordato prima per Libero, perché se confrontiamo le due prime pagine di oggi, se usiamo questo tipo di confronto, turpiloquio e insulti sul manifesto non ne leggo, mentre li leggo su Libero, e questo mi fa sempre molto effetto, sapendo che appunto è finanziato anche con soldi pubblici. Vi dicevo, veramente interessante questo aggiornamento sulla Alitalia, perché è un tema che ci portiamo da anni e anni, una questione che non si riesce a risolvere, quella dell'ex compagnia di bandiera in perenne crisi. E a pagina 15 del Messaggero, questo direttore, il piano del nuovo direttore generale Zeni, taglia gli aerei e 1000 esuberi. Sapete che quello della riduzione dell'occupazione è una richiesta fatta dagli eventuali, diciamo così, perché per ora non c'è una proposta vera e propria, gli eventuali acquirenti di Alitalia. Tra l'altro, grazie all'ascoltatore che segnala che Barnes & Noble, una famosa libreria di New York, ha riaperto sulla Fifth Avenue, e dalla stampa vi segnalo la storia di Francesca Rasini, che vive a Villanova d'Asti, in provincia di Asti. La libraia controcorrente: io non chiudo, mi ingrandisco. Ha solo 26 anni, ma questa passione da libraia all'interno del suo negozio è diventato il suo salotto letterario. E dall'Avvenire vi segnalo anche un approfondimento su un'altra vicenda che forse dovremmo impegnarci a tenere più monitorata, e per aggiornare anche tutti quelli che sono interessati o che magari hanno fatto una donazione. Parliamo del rogo di Notre Dame. E la cattedrale è bruciata, lo ricorderete, è scoppiato questo incendio il 15 aprile dello scorso anno. La sfida di Macron per Notre Dame: tra 5 anni la riapriremo. E c'è appunto il tema dei restauri, che procedono a rilento, ma perché sono dei restauri delicatissimi. Nei pochi minuti che ci restano volevo segnalarvi alcune cose dai supplementi domenicali, a partire naturalmente dalla Domenica del Sole 24 Ore e cominciando come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Normale. E la citazione è questa, molto breve: l'impresa eccezionale da Miretta è essere normale. E scrive Gianfranco Ravasi: non ho avuto mai l'occasione di incontrarlo, nonostante la mediazione di un comune amico. Ho però, come la maggioranza degli italiani, ascoltato qualche canzone di Lucio Dalla. Ed è proprio da un suo disco, dal titolo un po' criptico e un po' provocatorio, Disperato Erotico Stomp, del 1977, che traggo questa battuta, che mi fa venire in mente un grappolo di altri aforismi analoghi provenienti da voci più paludate. Ne cito due che sono quasi un commento e che ribadiscono quanto sia arduo vivere la quotidianità rispetto al giorno glorioso o tragico. Da un lato, ecco il grande Pascal, l'unità di misura della virtù di un uomo non sono gli sforzi, ma la normalità. Quest'ultimo vocabolo, infatti, rimanda alla norma, cioè alla regola costante della vita coi suoi impegni, spesso non esaltanti, ma necessari. È ciò che, d'altro lato, confermava un altro grande della cultura, Pirandello, nel dramma Il piacere dell'onestà. È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere una volta tanto, galantuomini si deve essere sempre. La copertina, però, la prima pagina della domenica è un lungo articolo di Guido Barbujanni, che è in realtà la recensione di un articolo apparso su Nature Communications, e la storia, il titolo è C'è del nero in Danimarca, ed è la storia di una donna vissuta 5700 anni fa in un'isola danese che masticò un frammento di betulla lasciandovi impresso il suo DNA. Da questo si è ricavato che aveva gli occhi azzurri e la pelle scurissima, e quindi una storia appunto raccontata su questa rivista che Guido Barbujanni ci racconta sul Sole 24 Ore. Vi segnalo anche un articolo di Carlo Ossola, che è una recensione di un libro appena uscito da Marsiglio, che ricorda Cesare De Michelis, il fondatore della casa editrice Marsiglio. I libri, uno strumento per garantirci l'eternità. E appunto il libro recensito si chiama I libri sono come le ciliegie, Cesare De Michelis in parole sue. E poi vi segnalo anche l'estratto del libro di Donato Masciandaro e Alberto Rioli, che è vice direttore del Sole 24 Ore, che si intitola Draghi, Falche e Colombe, l'euro e l'Italia dal 2011 al 2019. Il tema è quello delle banche centrali, quindi si parla molto anche di Christine Lagarde, che ha preso dal Fondo Monetario Internazionale, dall'FMI, ha preso il ruolo che fu di Mario Draghi, passaggio di testimone avvenuto ufficialmente il 28 ottobre dello scorso anno, le armi di Madame Lagarde. Quindi attraverso questo libro, prendendo spunto da questo libro che parla in generale di Mario Draghi e del ruolo dei banchieri centrali, appunto quello che ci si può aspettare, o comunque su quali temi si può ragionare pensando alla nuova presidente della Banca Centrale Europea. Poi quattro pagine dedicate a Arte Fiera Bologna, che l'edizione del 2020 si terrà dal 24 al 26 gennaio. E poi vi segnalo, tra i molti ricordi che ci sono sui giornali, di Federico Fellini, che avrebbe compiuto 100 anni, quello di Goffredo Fofi sul Domenicale, radicato nella meraviglia, in parola Rossellini la libertà, aggiungendovi le atmosfere di stupore infantile della sua Rimini, dove nacque 100 anni fa. Amò e odiò Roma, ritraendone però la magnificenza. La prima pagina, la copertina della Lettura, il supplemento domenicale del Corriere della Sera, come sempre affidato a un artista, questa settimana è Giovanni Anselmo. Le prime 8 pagine sono dedicate al proibizionismo e in generale a come si può lottare contro le droghe, contro gli stupefacenti, cioè se impedendone la vendita o l'utilizzo, ma anche appunto si analizza la vicenda del proibizionismo in America, quando negli anni 20 fu vietato l'uso dell'alcol e la conseguenza fu un aumento della criminalità e comunque della diffusione dell'alcol. E poi vi segnalo, visto che si parla molto di antisemitismo anche con l'avvicinarsi della giornata della memoria, il 27 di gennaio, Federico Argentieri, a pagina 13 della Lettura, ieri Trotsky, oggi Soros, i bersagli degli antisemiti. Il mito del bolscevismo giudaico, di cui parla Paul Hanebrick in un libro, era totalmente falso e ha prodotto orrori senza fini. Adesso lo ha sostituito lo spauracchio del cosmopolitismo agitato in Ungheria e in Polonia, ma a volte anche nel nostro paese. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto e ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.